Questo mercoledì 29 agosto, intanto uno sguardo ai titoli. Il Sole 24 Ore apre con l'intervista del quotidiano al premier Mario Monti. Gli spread alti danneggiano tutti, questa è una delle frasi del presidente del Consiglio intervistato da Fabrizio Forché. Vi daremo ovviamente ampi stralci dell'intervista al premier Monti nel corso della rassegna stampa. Per il Corriere della Sera, titoli di Stato, bene l'asta, Repubblica, Monti all'Europa, la mia roadmap. E poi molti quotidiani titolano e aprono invece sul forse clamoroso dietro fronte. Abbiamo scherzato 24 ore dopo, il decretone sulla sanità, di cui abbiamo parlato ieri sul tema tasse. Pare che sia stato fermato tutto nel pre-consiglio dei ministri, dubbi sulle coperture, insomma, sanità, stop al decreto, così titola il Messaggero. Il Giornale invece, ubriaco il decreto barcolla, la tassa su alcol e bollicine. L'Unità, sanità, il governo inciampa. Il Secolo XIX, salute, il no dei ministri a Balduzzi. Avvenire, gioco e fumo, manovre anti-decreto. Un altro tema invece che dà l'apertura per alcuni giornali è la fecondazione, la legge sulla fecondazione bocciata in una sentenza della Corte Europea di Strasburgo, fecondazione stop dell'Unione Europea per la stampa, errata concezione per il Manifesto, mentre il Fatto Quotidiano apre sulla scelta del PD, sì a Sallusti, no alla FIOM, alla festa del PD, del Partito Democratico, mentre Libero, l'ho lasciato per ultimo perché voglio partire da questa notizia d'apertura, i fondi segreti dei partiti, nuovo scandalo. Voglio partire proprio da questo. Franco Bechis, il vice direttore di Libero, scrive questo articolo: Parlamento ed enti locali girano ai vari gruppi politici oltre 200 milioni di euro l'anno, cari ascoltatori, ma è proibito sapere che fine facciano questi soldi. Il presidente della Camera dice che le norme non lo prevedono. Ed ecco qui dunque la lettera è giunta sulla scrivania di Fini, Gianfranco Fini, presidente della Camera, il 14 giugno scorso, firmata da battaglieri deputati della pattuglia radicale. Il capo è Maurizio Turco, chiedeva di poter accedere, magari averne pure copia, alla rendicontazione di ciascun gruppo parlamentare sui fondi pubblici a loro girati dalla presidenza della Camera. Fini ha letto e ha archiviato. Mi spiace, non posso rendere pubblico l'utilizzo di quei fondi perché nessuna norma o regolamento lo prevede. Quello che la Camera ha girato ai gruppi parlamentari nel 2011 non è un contributo qualsiasi, 36,2 milioni di euro l'anno. Al Senato sono arrivati 37,6 milioni di euro. E girano fiumi di soldi anche nei parlamentini regionali, con lo stesso criterio e identica segretezza quasi ovunque. Tutti insieme sono 138 milioni di euro l'anno, cioè il 50% in più della rata annuale 2012 dei quattro fondi che con la nuova legge finanziano i partiti italiani attraverso gli ex rimborsi elettorali. Un fiume di denaro senza regole, protetto dal segreto più assoluto della casta, finisce direttamente o indirettamente ai partiti e ai loro eletti anche nella stragrande maggioranza dei consigli comunali e provinciali, ed è quasi impossibile, fa sapere Bechis, avere dagli enti locali, che generalmente non pubblicano nemmeno il bilancio di funzionamento delle loro assemblee, l'entità dei trasferimenti ai gruppi consigliari. Ma guardando i pochi casi in cui si riesce a ricostruirla in qualche grande comune o in qualche provincia, è assai probabile che i partiti, oltre ai 90 milioni di rimborsi, arrivino anche più di 200 milioni di euro pagati dai cittadini, ma il cui utilizzo viene coperto dal segreto. Questa è una notizia che trovate su Libero. Fondi segreti ai partiti. Per esempio, Libero ha ricostruito che fondi dati in euro al Consiglio regionale del Lazio sono stati 5 milioni e 400 mila, al Consiglio regionale della Sardegna 6 milioni, a quello del Piemonte 7 milioni e mezzo, all'Assemblea regionale della Sicilia 12 milioni e 291 mila. Finanziamenti che vengono definiti segreti proprio da Libero, sono ricostruiti perché ovviamente non si sa nulla, vengono tenuti, non ci sono... Com'è che è? Non c'è il regolamento, nessuna norma che prevede che vengano resi pubblici questi finanziamenti. Dove vanno a finire, come vanno a finire, come vengono utilizzati. Ecco, volevo iniziare da qui. E poi vi voglio sottoporre, prima della pubblicità, un articolo molto interessante che trovate in prima pagina del Corriere della Sera. Lo firma il professor Giuseppe Remuzzi, che è anche un ascoltatore di Radio 24, spesso ospite anche nelle nostre trasmissioni. Io, primario, respinto a medicina. Il professor Remuzzi parla del tema dei test di ammissione alle università. Ebbene, il test di medicina in particolare, il test di medicina, scrive Remuzzi, nulla che aiuti a capire se il futuro medico saprà parlare con gli ammalati e stargli vicino, nemmeno una domanda d'inglese, un esame che assomiglia alla vecchia maturità, forse non l'avrei passato. E io primario avrei dovuto rinunciare a tutto quello che ho avuto del mio meraviglioso lavoro. Eccolo qui, allora, ho fatto l'esame di medicina, o meglio, ho fatto il test, 15 errori ho fatto, e vediamo... Le domande di logica. Eccone una. Questo dal test di medicina. L'ipotesi di Ronald Smith è che studenti molto ansiosi, se ridono durante gli esami, hanno prestazioni più brillanti. In quelli meno ansiosi non funziona. Ci sono quattro possibili risposte. Quella giusta sarebbe formulare le domande in termini umoristici non dà vantaggio a studenti poco ansiosi. Va bene, ma che logica c'è in tutto questo? Beh, la risposta è nella domanda. Oppure una domanda sui taoisti e il significato della pratica meditativa fondata sulla respirazione profonda. C'è un brano di Pasqualotto che parla di sapori dell'aria e che mescola specchi d'acqua tranquilli col vuoto della respirazione profonda, che non è fine a se stesso ma in funzione di un riempimento qualitativamente migliore. In questo caso la risposta giusta è: affollarsi di una molteplicità di stimoli sensibili e cognitivi non è condizione ideale per apprezzarne le rispettive qualità. Ecco, scrive Remuzzi, io preferirei che chi vuol fare il dottore mi dica se secondo lui c'è un problema etico nell'impiegare cellule staminali embrionali per la ricerca, e se un ammalato grave ha il diritto di decidere come morire e quando, e se non lui chi altro. Se mai più della dinamica del vuoto taoista avrei chiesto qualcosa sul rapporto tra il pensiero di Galileo e i dogmi della Chiesa, o il futuro medico dovrebbe sapere cos'è il New England Journal of Medicine e il Lancet. Deve sapere, deve essere colto il medico, per carità, ma se anche non sa che piove sulle Tamerici il celeberrimo passo di D'Annunzio e che è un'anafora, pazienza, meglio se sa chi è il nuovo direttore del New York Times magari. Oppure, per misurare la densità del sangue che si possa usare una miscela di xilene o bromobenzene, può darsi, ma chiedere al candidato quale tecnica sceglierebbe per misurare una cosa che non si misura mai è ridicolo. Perché non chiedere quanti bambini invece muoiono di morbillo al mondo? Dove? O da dove è venuto il virus dell'AIDS? Io al candidato chiederei candidamente se fuma, e quelli che fumano li lascerei fuori. In questo test non c'è nulla che aiuti a capire se il futuro medico saprà parlare con gli ammalati. In Virginia, invece, chi dimostra garbo e sensibilità e buonsenso viene ammesso, se no è fuori. Quando questi ragazzi saranno laureati, gli interventi chirurgici li faranno i robot, il 90% della medicina sarà information technology. Quanto a me, scrivere Muzzi, non so se avrei passato l'esame di ammissione, forse no, di domande ne ho sbagliate almeno 15 e avrei dovuto rinunciare a tutto quello che ho avuto dal mio meraviglioso lavoro, l'essere vicino a tanti ammalati, guarirne qualcuno, la ricerca. E poi non c'è una domanda d'inglese, la lingua del futuro, nessuna domanda su questo test di medicina. Insomma, l'esperto alle prese con la prova del ministero. I dubbi del professor Remuzzi li trovate sul Corriere della Sera, pagina 23, quei miei 15 errori al test di medicina, con una domanda: che c'entra il taoismo in un test di ammissione all'università di medicina? Ecco, che c'entra. Riprendiamo tra due minuti dalla politica, riprendiamo in particolare dall'intervista che il premier Mario Monti ha rilasciato al Sole 24 Ore. E allora, il premier Mario Monti ha rilasciato un'intervista al Sole 24 Ore a Fabrizio Forché, un'intervista che trovate, è il titolo di apertura. Gli spread alti danneggiano tutti, di questo di prima pagina, mentre il titolo dell'intervista che trovate è tutta a pagina 3, bloccare la BCE può essere un autogol. Che cosa dice appunto Mario Monti? L'agosto intanto è stato spesso negativo per i mercati e l'Italia, questa volta non sembra essere stato così, ma vorrei essere prudente. È il 28 agosto, ha rilasciato un'intervista ieri, mancano ancora 3 giorni lavorativi alla fine del mese. Non è invece una sorpresa l'andamento positivo delle aste, di ieri. La mia percezione, dice il Premier, è che le risposte di politica economica che stiamo dando comincino a prevalere sulle preoccupazioni, sulle sfide dei mercati, risposte che sono state date a livello di singoli paesi, ma anche del complesso dell'Europa. A proposito di Europa, salto più avanti, uno dei temi caldi, ovviamente, di cui si discute. Non posso anticipare i temi dei colloqui con Angela Merkel, dice ovviamente Monti. Certamente sulla questione dello spread, sicuramente è giusto far notare che questo squilibrio è grave per noi, ma è un rischio anche per i paesi che oggi sembrano beneficiarne. E poi sulla BCE, il potenziale di inflazione che si determina in Germania non credo corrisponda ai desideri né della BCE né del governo tedesco. Precludere alla BCE, come vorrebbe la Bundesbank, interventi nel mercato dei titoli di Stato volti a moderare gli squilibri potrebbe rivelarsi, in particolare dal punto di vista tedesco, un autogol con effetti paradossali. Dunque qui Monti risponde al presidente della Bundesbank Weidmann, che aveva detto in sostanza dare aiuti agli stati è come drogarli, dare una droga, e invece risponde bloccare la BCE potrebbe essere un autogol anche per i tedeschi, Mario Monti. E poi ancora, non voglio che l'Italia, dopo gli sforzi e i risultati ottenuti, si è sottoposta a una sorta di commissariamento intrusivo, come è avvenuto per paesi che avevano bisogno di aiuti per chiudere i propri bilanci. Noi non siamo in quella situazione. Sul futuro poi dell'Italia, alla domanda di Fabrizio Forché, ma si dice poi Monti va via e torna l'irresponsabilità dei governi. Ecco la risposta del Premier: questa diffidenza mi pare ingiustificata, il Parlamento e i partiti hanno dato prova di responsabilità, ma voglio anche dire che per fortuna l'Europa e i suoi trattati offrono una protezione, una sorta di guardrail che impedisce ai governi che si susseguono nei singoli paesi eccessi di creatività e fantasia nella gestione dei bilanci pubblici. E infine un altro tema molto importante sul quale Sole 24 Ore nei giorni scorsi ha messo il dito nella piaga, vale a dire le riforme sono state annunciate, ma poi l'implementazione delle riforme e quindi tutti i decreti attuativi per renderle pratiche ha lasciato il tempo che trova fino a questo momento. E effettivamente Monti dice: noi italiani a tutti i livelli siamo e siamo considerati bravi nel proporre, spesso nel decidere, ma piuttosto deboli nel follow up, cioè nel dare seguito realizzativo alle decisioni. Le leggi troppo spesso si perdono di vista, e questo vale anche per i governi. Noi che abbiamo un tempo breve dobbiamo dare grande attenzione a questo. E tra l'altro su questo si lega l'editoriale del direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano, che prendendo spunto da quel che secondo lui è il punto chiave, appunto, noi italiani siamo bravi nel proporre ma non poi a far seguire le decisioni, annuncia dunque sul Sole 24 Ore: a questo proposito noi abbiamo deciso, prendendo in parola il Presidente del Consiglio, ogni mese verificheremo lo stato di attuazione di tanti provvedimenti strutturali e oltre al quadro mensile sul tasso di attuazione dei singoli provvedimenti, offriremo ai nostri lettori un rapporto semestrale invece sull'impatto che l'attuazione di questi interventi determina nell'economia e nella società. Questo nell'editoriale di prima pagina è il nostro impegno con i lettori, che prende spunto appunto dall'ampia intervista al Premier Monti che potete leggere, come detto, a pagina 3. A proposito di Europa, dunque, sono giornate decisive sicuramente. Come avete sentito, Monti dice: non è che posso anticipare gli colloqui che avrò con Angela Merkel. Però è interessante ciò che trovate sulla Stampa, sotto il titolo dell'articolo di Fabio Martini a pagina 5, intitolato La confidenza di Hollande. E la confidenza di Hollande, il presidente francese, sarebbe stata questa a Mario Monti in uno dei recenti incontri. Virgolettato: noi siamo contrari, avrebbe detto Hollande a Monti, ma è bene che tu sappia che i tedeschi mi dicono che vorrebbero che anche l'Italia, oltre la Spagna, chieda formalmente gli aiuti. E dunque, questo è il titolo: la Germania vuole che l'Italia chieda aiuto. Così i tedeschi puntavano a mettere Roma sotto tutela. Oggi ci sarà il faccia a faccia tra Monti e Angela Merkel a Berlino. E dunque, a dispetto dei grandi sorrisi che i due si dispensano, della reciproca stima, scrive Fabio Martini, non sempre Merkel e Monti coltivano interessi convergenti. Il presidente del Consiglio ha interiorizzato quello che gli aveva confidato il presidente francese Hollande nel corso di un incontro all'Eliseo l'ultimo giorno di luglio, che è proprio questo. Hollande avrebbe detto: sappiate che, sappi, caro Mario, che i tedeschi vorrebbero che anche l'Italia chieda formalmente gli aiuti. Insomma, in qualche modo, un modo per mettere sotto tutela, appunto, Roma. Non si sa se è un retroscena, ma certo la stampa lo mette in pagina 5. Questo per quel che riguarda l'Europa. Vedremo oggi ovviamente come andrà l'incontro poi tra Monti e Angela Merkel. Venendo all'Italia, cari ascoltatori, cosa dobbiamo dire di quello di cui abbiamo parlato ieri, il decreto della sanità? No, noi ne abbiamo parlato sul tema delle tasse, sulle bibite zuccherate, oppure c'è la stretta sul gioco d'azzardo, no? Si vuole porre un limite a mettere i video poker, queste cose qui, insomma, il gioco legale d'azzardo con un limite di 500 metri, non si possono mettere vicino alle scuole, alle parrocchie, agli ospedali. Pare che stia saltando tutto. Cioè, 24 ore fa era il sogno, uno dei punti, il decreto chiave, decreto del ministro Balduzzi, che ieri ha detto: ma no, sono solo problemi tecnici. In realtà pare che ci sia un rinvio, un rischio rinvio quasi certo. Doveva andare venerdì in Consiglio dei Ministri, non si sa bene se andrà in Consiglio dei Ministri. C'è stata infatti la riunione del pre-Consiglio dei Ministri e molti ministri hanno sollevato dubbi. Tra questi, più di tutti, è stato il ministro al tesoro Grilli. E tra l'altro, guardate, c'è un qualcosa che, sullo quale si potrebbe anche ironizzare, se non fosse che le cose sono molto serie. Leggete il Corriere a pagina 6, il retroscena del pre-consiglio dei ministri, il no secco di Vittorio Grilli, ministro dell'economia, nella riunione del pre-consiglio. Perché? Perché la stretta sul gioco d'azzardo in particolare, che stabilisce una serie di limitazioni, le distanze appunto delle sale da scuola, ospedali, luoghi di culto, creerebbe problemi intanto pratici. Vuol dire che nelle grandi città c'è sempre nei pressi o una scuola, un ospedale, un luogo di culto, per cui praticamente non si riuscirebbe a mettere nei grandi centri urbanizzati praticamente da nessuna parte. E poi ci sarebbe un calo delle entrate, perché ovviamente su questo lo Stato ci guadagna. Cioè, paradossalmente, il decreto che tra l'altro prevedeva di mettere alcune tasse nuove, quello sulle bibite, è stato bocciato da Grilli perché dice ci fa perdere in termini di entrate e dunque ci fa guadagnare meno sotto il profilo delle tasse. Ecco, insomma, sembra un po' un impazzimento, però, o un'assurdità. Sembra Ionesco il teatro dell'assurdo, ma in realtà sono i conti che ha fatto Grilli. In realtà anche ci sono i dubbi nel ministro Passera, che ha fatto capire che c'è anche tutto un indotto, persone che lavorano in questi comparti, per esempio questo del gioco legale d'azzardo, e sul quale appunto ci sono dunque delle misure da valutare. Insomma, anche il Sole 24 Ore titola pagina 10: decreto sanità a rischio rinvio. Per Repubblica si sono mosse anche le lobby su tutti i settori. Michele Bocci ne parla, pagina 4, nuovo assalto delle lobby, i gestori di videopoker gridano al proibizionismo. Chi invece si è espresso a favore di questo decreto è la Chiesa. Infatti oggi Avvenire, il quotidiano della CEI, in un editoriale tra l'altro del suo direttore Marco Tarquinio, scrive in prima pagina: impegni da mantenere, c'è un percorso finalmente avviato e c'è chi vorrebbe interromperlo, almeno renderlo lento e impossibile. Il decretone sanitario che attende di essere approvato dal Consiglio dei Ministri è promettente, ma certe promesse, scrive Tarquinio, come quella di rendere più difficile continuare a gettare le reti del gioco d'azzardo per razziare pesci di ogni taglia, perfino piccolissimi, per qualcuno sono vere e proprie minacce. Lo Stato biscazziere, che proprio in questi anni di crisi è cresciuto a dismisura, fa comodo a molti, soprattutto a chi s'acquatta la sua ombra. L'impegno delineato dalle misure predisposte dal ministro Balduzzi e da quelle annunciate dal ministro Riccardi non può e non deve essere smentito o anche solo raffreddato. Siamo certi che non prevarranno le interessate logiche di certe lobby, ma si imporrà la pura e semplice logica del buono e del giusto. L'Italia non può continuare a scivolare lungo la china di azzardopoli. Insomma, Marco Tarquinio se la prende soprattutto, ed è una campagna che il quotidiano Avvenire sta facendo da tempo sul gioco d'azzardo legalizzato. Che dire, si può raccontarla anche per vignette, due in particolare, questa vicenda un po' assurda di avanti, indietro, forse lo facciamo il decretone, forse no. Sulla sanità, in prima pagina del Corriere, Giannelli, la vignetta, c'è una bottiglietta di Coca-Cola con l'etichetta cambiata Coca Cara, e dentro nella Coca-Cola, dalla Coca-Cola emerge la faccia del ministro Balduzzi. Oppure l'unità ancora più efficace, Staino in prima pagina chiede alla figlia di Bobo: perché tassano le bevande gassate? E il papà Bobo: per educarci a ostriche e champagne. Vabbè, insomma, staremo a vedere. Venerdì c'è il Consiglio dei Ministri, ci sarà questo decretone, non si sa, vinceranno le lobby, come dice qualcuno, o vincerà la linea Grilli, ci saranno meno entrate, quindi bisogna cambiare alcune cose, o vincerà invece la linea Balduzzi, che vuole portare avanti questo decreto. Mancano due giorni e lo scopriremo. La politica invece, la politica si anima, si fa per dire, cioè c'è tutto il dibattito sulla legge elettorale, che ovviamente non sta portando a nulla, grandi discorsi, ma accordi siamo a zero. Ora si riunisce il comitato ristretto ogni giorno prima ancora di riunirsi dicono: ma non c'è tanto l'accordo, quindi non c'è nessun accordo sulla legge elettorale che dovrebbe sostituire l'attuale. Forse la novità più interessante, almeno per Repubblica, è questa. Repubblica la mette in prima pagina, sono certo che nel giro di 2 o 3 ore ci sarà la smentita di Silvio Berlusconi, ma Repubblica dice: il Cavaliere ha deciso con un nuovo cambiamento di scena improvviso, Berlusconi chiede il voto a novembre. Così titola Repubblica in prima pagina con Carmelo Lo Papa, virgolettato attribuito all'ex premier: non abbiamo scelta, il 2013 è troppo lontano, le procure mi perseguitano, i giudici vogliono condannarmi prima della campagna elettorale, dunque è maturata questa accelerazione nel giro di 24 ore. Berlusconi, un messaggio al Quirinale: chiediamo di votare a novembre per dare l'ok alla legge elettorale. Cioè, visto che la riforma è in stallo, secondo Repubblica, Berlusconi avrebbe messo sul campo e sul tavolo della trattativa questa idea: vogliamo fare la legge elettorale, però in cambio votiamo a novembre. Perché, dice Repubblica, il Cavaliere teme condanne prima delle urne. Che Berlusconi sia di nuovo in campo, stia per sciogliere definitivamente i dubbi dopo l'annuncio, poi forse un passo indietro, un'estate in cui qualcuno l'ha descritto come depressissimo, depresso, alternante momenti di depressione, momenti di euforia. Anche la stampa su questo è abbastanza certa, a pagina 10 l'articolo è questo: Berlusconi di nuovo in campo, l'annuncio sempre più vicino. Non è che si va a Roma fino a agosto mentre l'attività parlamentare è ferma senza un buon motivo. Infatti Berlusconi, che è sbarcato ieri a Roma direttamente dalla Sardegna per una toccata e fuga più o meno di 24 ore per partecipare a una riunione ristretta, il tema è questo, la legge elettorale, e a Palazzo Grazioli l'ex premier ha aperto le porte al protagonista della trattativa, vale a dire il pidellino Denis Verdini, al segretario Alfano, al portavoce Paolo Bonaiuti, e secondo la stampa è certo l'annuncio ormai a giorni. L'annuncio, sì, scendo nuovo in campo. Comunque staremo a vedere. Si muove anche Renzi, Casini fa un'intervista al Messaggero. Vabbè, insomma, si anima la campagna elettorale e sarà sempre più così. Vi piaccia o no, cari ascoltatori? Il traffico. Allora, molti giornali invece aprono sulla legge 40. Certo, è un tema molto specifico che riguarda non tantissimi italiani, però è un tema anche di etica e di bioetica molto, molto delicato, vale a dire il tema della fecondazione assistita. C'è stata una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani a Strasburgo sul ricorso di una coppia italiana. La sentenza trovate a pagina 15 del Sole 24 Ore sotto il titolo "Sulla legge 40 il freno di Strasburgo", una sentenza che in pratica pone delle problematiche su come è stata scritta la legge 40, ma non solo, non tanto sulla legge 40 in particolare. Scrive infatti Francesca Cerati sul Sole: il sistema legislativo italiano nel complesso in materia di diagnosi preimpianto degli embrioni è incoerente. Questo è il senso e la conclusione della Corte Europea dei Diritti Umani sul ricorso di una coppia italiana fertile ma portatrice sana di fibrosi cistica. La Corte ha stabilito che, così come è formulata la legge 40, viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare della coppia, per cui lo Stato dovrà versare 15.000 euro per danni morali alla coppia stessa. L'incoerenza qual è? Sta nel fatto che un'altra legge dello Stato permette alla coppia di accedere all'aborto terapeutico in caso il feto sia affetto da fibrosi cistica. In altri termini, la legge lascia la scelta di concepire un figlio malato, salvo poi dare la possibilità di optare per l'aborto. Allora, in questa contraddizione, secondo la Corte, sta il vulnus del sistema legislativo italiano su questa tematica molto complessa. Questo dalla stura ovviamente a dibattiti che trovate un po' su tutti i giornali, su chi è pro questa decisione di Strasburgo, su chi è contro. Per esempio, giusto per dare due giornali che, come potete immaginare, anche ideologicamente sono ispirati in modo diverso e quindi la pongono in modo totalmente diverso. L'Europa torna a picconare la legge 40, questo è il titolo di Avvenire, che parla di sentenza eugenetica, questo in prima pagina, lo fa anche il Foglio. Mentre il Manifesto, dall'altra parte, errata concezione, questo è il titolo della prima pagina del Manifesto, e la legge è definita inumana. Ecco, vedete, sentenza eugenetica per Avvenire al Foglio, legge italiana inumana per il Manifesto. Comunque trovate tanto su questo dibattito su ogni giornale per farvi un'idea, insomma, per leggere anche pareri di diverso tipo, pareri di biologi, pareri di genetisti. Per esempio, il Sole 24 Ore ne pone due, la biologa Cinzia Caporale, che dice l'Europa ha ragione su questa legge, mentre Bruno Dalla Piccola, genetista, dice no, perché con questa decisione si discrimina il concepito. Comunque un tema molto molto profondo, insomma, nel quale magari invita la lettura molto più profonda rispetto a quello che possiamo fare qui con la lettura di titoli. Un tema molto profondo, per cambiare totalmente argomento, anche quello della trattativa Stato-mafia. C'è stata una scoppiettante puntata con Enrico Mentana sulla 7, in cui Giuliano Ferrara ha detto che la trattativa Stato-mafia è una minchiata, e Travaglio gli ha risposto per le rime. Interessante, eh? Sì, ma interessante non per capire il problema, perché ormai, secondo me, si è trasformato in questo, un tema molto importante sulla storia dell'Italia, si è trasformato da giorni, quest'estate poi non ne parliamo, in una serie di articolesse, di botte e risposta, di piombo fuso sui giornali, di centinaia di caratteri e centinaia di righe tra persone che se si telefonassero, magari invece di parlarsi l'uno con l'altro, Ferrara, Travaglio, Scalfari, Mauro, tutti che dicevano la loro, ma si è perso un po' il senso, forse fondamentale, cioè spiegare le cose agli italiani, invece è diventato più una diatriba quasi personale. Guardate anche oggi l'esempio, Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano parla tutto su Ferrara. Ferrara, quando non dialoga con se stesso e veste come Bagonghi, va chiamato possibilmente sempre in TV. Nessuno meglio di lui riassume con una franchezza che sconfina nella spudoratezza come ragiona il potere in Italia. Ha raccontato una serie di palle come una gigantesca macchinetta spara palle dei tennisti. Ne sparava così tante in TV che era impossibile respingerle tutte. E le riepiloga. Ferrara cosa fa? Fa un'intervista, intervistato dal Giornale, da Stefano Zurlo, dice: i Travaglio, gli Ingroia usano la mafia per fare carriera. Ribadisco, la trattativa tra Stato e Cosa Nostra è una minchiata, non c'è niente di niente. Invece gli Ingroia ci propinano queste sciocchezze che i loro cani da guardia come Travaglio volgarizzano. Io però non mi faccio mettere l'anello al naso. E poi ancora sul Foglio, Cirino Pomicino che scrive invece una lettera. Cirino Pomicino che scrive una lettera al Foglio dicendo: la trattativa ci fu. E Giuliano Ferrara gli risponde: anche tu, quosque tandem Pomicine, anche tu dici queste cose. Vabbè, ecco, se volete leggere c'è materiale anche per leggere i botta e risposta. Che ha fatto invece il direttore generale della RAI, Gubitosi? Racconta Carlo Tecce in uno spassosissimo articolo che trovate sul Fatto Quotidiano a pagina 5. Gubitosi cerca Marchette e le trova. Cosa ha fatto? Ha fatto come fanno molti dirigenti, cioè si è messo le scarpe, giacca, cravatta, ha detto domani visito di persone. È andato a vedere Uno Mattina, una puntata di Uno Mattina. Racconta Carlo Tecce, ripeto, in maniera spassosa anche la visita di Gubitosi. Apriti, cielo, mazze, ramazze, parrucchieri, la redazione stira lo studio, i dipendenti anticipano la colazione, si riuniscono, le frasi di rito. Ah, super mega direttore galattico, che piacere averla qui. Gubitosi è puntuale, alle 6:30 del mattino arriva e pare che si sia arrabbiato tantissimo, perché a un certo punto passa mezz'ora in cui si parla di una strana pubblicità non a pagamento, la definisce il Fatto, sul benessere termale, in particolare a Chianciano. Gubitosi a un certo punto aspetta la pubblicità, quella vera, scrive Tecce, e si arrabbia. Ma che è? Che roba è questa? Non capite che state facendo propaganda occulta? Questa è una televisione pubblica. Chi è il responsabile di tutto questo? Cioè pare si sia infuriato per quella che avrebbe visto essere definita in gergo giornalistico una marchetta, cioè fare una propaganda a un qualcosa che non è una pubblicità, viene fatto passare per spazio giornalistico, ma in realtà si pubblicizza qualcosa. E Carlo Tecce tra l'altro insinua, perché dice la responsabile di Uno Mattina, Susanna Petruni, guarda caso va a Chianciano sempre in vacanza, e si parlava di Chianciano. Insomma, il direttore generale visita redazione, studi, quanti sprechi in Rai. Se è vero quello che c'è scritto sul Fatto, attendiamo fiduciosi che metta mano con interventi per porre fine a questi sprechi nella TV pubblica, se ci sono, se ci sono, così pare. Noi intanto ci fermiamo, c'è il giornale radio, poi ripartiamo con Di Pietro alle 8:20 e poi parliamo delle cause tra cittadini e mala sanità o presunta tale.